spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Non potrete comprare McDonald's in piazza con la chiusura di McDonald's in Russia, naturalmente avete visto, campeggia su tutti i giornali l'ipotesi di misure anche per Coca-Cola e Apple, questo più o meno ha monopolizzato l'attenzione quando si parla di sanzioni e controsanzioni, di boicottaggio da parte della Russia di prodotti che vengono da altrove, naturalmente da mercati che sono selezionati sugli organi di informazione europea. Intanto però circolano molte stime nazione per nazione delle perdite che ogni paese registrerà nel settore ortofrutticolo e agroalimentare in generale a seguito di questo braccio di ferro, di questo stop, di questa minaccia da parte della Russia che spaventa l'Europa. Sembra che le diplomazie siano al lavoro per evitare altri tipi di embargo che potrebbero avere degli effetti dirompenti, però intanto noi vediamo questo, che in risposta alle sanzioni occidentali il Cremlino ha adottato delle misure contro Unione Europea e Stati Uniti. Soprattutto hanno colpito l'agroalimentare. E allora, a spunti di vista, oggi buona giornata da Irene Zerbini. Con noi sarà il ministro alle politiche agricole Maurizio Martina. Ed è vero che il mercato russo non è l'unico in cui l'Italia esporta, però era stato quello che nel 2013 si era dimostrato il più dinamico, con un'impennata del 24,3% rispetto all'anno precedente per quel che riguarda i produttori italiani di agroalimentare. E allora ci si chiede, al di là degli articoli, delle cifre, dei numeri che sembrano spaventare l'Europa, andiamo a vedere alla fine chi viene colpito, perché questi bracci di ferro si riflettono sempre poi alla fine sull'anello debole della catena, cioè lavoratori e produzione. Insomma, quanti sono gli addetti in Italia che potrebbero vedere la propria filiera a rischio, il proprio posto di lavoro, anche se sugli altri giornali nel resto d'Europa si calcola si perderanno circa 130.000 posti di lavoro per l'embargo russo, naturalmente l'Italia è una delle più penalizzate. È uno dei temi che affronteremo in spunti di vista, e se siete imprenditori o lavorate nel settore fateci pervenire le vostre osservazioni o domande o suggerimenti al 349-238-6666. Questo è il numero degli SMS. Dalle 8:30 invece potremo parlare anche al telefono all'800 24 00 24. Le domande che avete da fare al ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, che sarà con noi nel corso della trasmissione. E poi parleremo di libri, perché nel 2013 oltre 24 milioni di persone di 6 anni e più naturalmente dichiarano di aver letto, secondo i dati Istat, almeno un libro nell'anno precedente. Stiamo parlando di libri non letti per motivi strettamente scolastici o professionali. Rispetto al 2012 è una quota inferiore? Sì, leggermente inferiore, è scesa dal 46 al 43%. Quello che emerge ancora una volta è la differenza di comportamento tra i generi, cioè leggono di più le donne, il 49,3% della popolazione femminile e solo il 36,4% di quella maschile. E sapete qual è la fascia d'età in cui si legge di più? Ma questo è un dato che si ripete ogni anno, nonostante venga poi riportato dai giornali sempre dicendo a sorpresa. La fascia di lettori più forti in Italia è quella tra gli 11 e i 17 anni. E stiamo parlando ancora una volta di libri non scolastici. La propensione alla lettura, dicono, dipende dalla scuola, ma anche dall'ambiente familiare. E permangono differenze territoriali, naturalmente, perché si legge di più in certe regioni del nord e del nord-est, mentre nel sud e nelle isole la quota di lettori è pari solo al 30,7%. Ma al di là di queste differenze, a cosa è dovuto il potere, il dovere avvicinarsi a un libro e trovarne il piacere. Su questo si sono interrogati in tanti insegnanti. E non solo, noi oggi a Spunti di Vista vogliamo chiedere un consiglio a voi, cioè qual è il titolo di libro o il libro che avete scoperto recentemente che secondo voi farebbe innamorare anche un non lettore. Di questo parleremo dalle 9, vogliamo sapere proprio da voi che libro regalare a chi non legge e perché. E anche per questo 800 24 00 24, vale a dire il numero di telefono per i vostri interventi. Prima però noi andiamo all'estero. Visti da fuori. Hola Inaki. Salve, buongiorno. Buongiorno. Il nome è come Spagna, Iñaki. Iñaki. Giusto? Sì. L'ho detto accettabilmente, non credo bene, credo in maniera accettabile. Iñaki Díez Rubio o Rubio. Sì, corretto. Lavora per la Radio Nazionale de España e quindi racconta nella Radio Nazionale Spagnola tutti i nostri difetti, punti forti e soprattutto abitudini. E tu stai per andartene, sei uno di quei corrispondenti che ci lascerà, quindi sei particolarmente prezioso. Dopo quanti anni tornerai in Spagna? Sono rimasto qua per 8 anni, esattamente 8 anni saranno il 31 agosto e il 31 agosto me ne vado via, ma nel mio cuore rimarrà sempre l'Italia. Ieri nella tua trasmissione ho sentito una cosa che mi ha fatto riflettere, era sulla felicità. Non permanere troppo tempo in stessa condizione. Io penso una cosa del genere. Veramente sono felice qua, ma quando ti muovi, ti fai una trasferta, ti fai vedere da un altro punto di vista, sicuramente prende più apprezzo a quello che avevi prima. Quindi tu, stando in Italia, hai imparato a conoscere meglio la Spagna o ad apprezzare qualcosa della tua nazione d'origine? Sì, sicuramente. Puoi dirlo tranquillamente, non ci offendiamo. Quali sono gli aspetti che ti sono mancati in questi 8 anni in Italia? Che mi sono mancati, per esempio, avere sempre libero il passo carrabile del garage. Sono cose importanti, sì, vale la pena di vivere per quello. Cioè tu in Spagna arrivavi di fronte al tuo garage, entravi, e invece qui cosa devi fare? Suonare il clacson? Non so. Suonare il clacson, chiamare al vigili, aspettare qualche volta forse una ora. Inoltre quando arrivano il guidatore, mi è arrivato a dire: ah, purtroppo questa Roma, tu abiti al centro a Roma, questa cosa succede, no? È una cosa che non riesco a capire dopo 8 anni. Quindi ma scusa, ne hai parlato anche nelle tue corrispondenze sulla Spagna? Cioè sulla radio spagnola hai parlato di questa tua quotidiana preoccupazione per il passo carrabile? Una cosa piccola, ma è quotidiana, è quando si deve prendere la macchina per andare a fare delle interviste e vedi che non arriva mai alle interviste perché il parcheggio è bloccato e diventa alla fine, dopo un giorno, un altro giorno, una settimana, un mese, un anno, diventa un vero incubo. Sì, ho parlato, l'ho commentato, avevamo fatto puri scherzi perché alla fine è tutto deve essere preso come un scherzo, ma giorno a giorno è una brutta abitudine e ha brutte conseguenze pure. È molto bella questa capacità di voi giornalisti che fate i corrispondenti, naturalmente di tutti i giornalisti che fanno i corrispondenti altrove, di raccontare un paese con la lente d'ingrandimento su uno dei fatti della vita quotidiana, anche sulle cose più piccole, perché naturalmente sapete selezionare ciò che è indicativo, ciò che non è sporadico ma che è indicativo di molto altro e della mentalità. Ti faccio la domanda ribaltata: quando sarai in Spagna, cosa ti mancherà dell'Italia? Per esempio, adesso il sole della mattina, Non so se tu sai, Irene, sanno gli ascoltatori, che noi nella Spagna abbiamo lo stesso flusso orario dell'Italia, e quello non è normale, perché noi viviamo 1500 chilometri all'ovest, quindi la fascia oraria dovrebbe essere diversa, ma abbiamo la stessa. E non sai che cosa più brutta è svegliarsi per la mattina per andarci a lavorare, è sempre notte, notte, notte, una ora, un'altra ora, è sempre notte. Noi abbiamo questo flusso orario lo stesso da voi, è una curiosità, e te lo racconto in appena un secondo, perché Franco ammirava tanto a Hitler e a Mussolini, e ha cambiato nella decada del 1930, dopo la guerra 1939, ha cambiato il flusso orario spagnolo normale per il flusso orario italiano e tedesco. Cioè, prima eravate indietro di un'ora? Ecco, sì, come Londra. Noi stiamo sul zero del meridiano Greenwich, e dobbiamo avere la stessa ora della Inghilterra. Invece, dopo la guerra civile spagnola, Franco ammirava Mussolini, ammirava pure Hitler, e ha detto: noi dobbiamo avere la stessa ora che l'Italia e la Germania. È una cosa inconcepibile. Quindi avete dopo 70 anni, dopo 70 anni ancora ce l'abbiamo. Perciò adesso alle 10:15 nell'estate, in la Galizia, all'estremo ovest sì, Spagna, sopra il Portogallo, diciamo. Sì, ancora c'è il sole e la gente sulla spiaggia. È una cosa veramente bella, ma straordinaria. Dopo tutto torna brutto nell'inverno, quando alle 9 della mattina quasi ancora non c'è il sole. In che città andrai a vivere? Nella mia città, io sono basco, e andrò a vivere a Bilbao, è sul Atlantico, vicino alla Francia, tra San Sebastian e Santander. E lì avrai modo di apprezzare, tra San Sebastian e Santander, questo retaggio fascista che vi è rimasto in qualche modo. Sull'orario, al mattino potrai maledire Franco quando suona la sveglia. Puoi farlo in italiano tranquillamente, come omaggio a questa tua esperienza in Italia. Di cosa ti sei occupato? In questi 8 anni tu hai visto un'Italia, possiamo dire, cambiata? Hai notato più elementi di cambiamento o elementi di stagnazione? Veramente tutto evoluziona. Voglio andare a una cosa, una cosa quotidiana. Da 8 anni, quando io volevo attraversare la strada per il passo fatto per le pedoni, era veramente pericoloso. Ma in questi 8 anni io ho visto come le macchine sono abituate in più a fermarsi quando vedono un pedone che vuole attraversare la strada. E questo ci è successo pure nella Spagna. Eravamo prima molto più selvaggi, come tanto gli italiani e gli spagnoli. E c'è stata una cultura più accorde con i tempi, dico. Ma in questi 8 anni questa è una evoluzione, ma io sono stato veramente fortunato. Ho raccontato delle cose incredibili, per esempio la uscita di un papa dopo 700 anni. Questo lo potrò raccontare a miei nipoti e dirle: il gran pai, il nonno era di là e stava lavorando. Certo, si fanno i figli e i nipoti per quelli, no? Per annoiarli con tutte le cose che avevamo fatto da giovani, giusto? Sai, io c'ero alle dimissioni del papa, sai che godimento per i tuoi nipoti, siamo molto contenti. Comunque, no, scherzavo. Il tuo commento sul passo carrabile sta provocando una sorta di secessione tra i lettori, che mi segnalano. Non solo che quello dell'ostruire con l'auto un altro dovrebbe essere sanzionato pesantemente, ma che se tu avessi vissuto a Milano non ti sarebbe successo. è che solo a Roma succedono queste cose. Beh, sarebbe bello poterlo sottoscrivere, ma non è così. Grazie comunque Alessandro che ci ha inviato questo sms 349-238-6666. Hai notato questa inclinazione dell'italiano a dividersi sempre, a identificare il nemico all'interno del proprio confine e non tanto fuori? No, non specialmente, veramente no, non specialmente, io penso che ci siamo molto simili in questo senso. Tanto spagnoli e italiani. Sì, perciò per me non esatto, non con le divisioni interne che avete voi, cioè tu, noi scompariamo. Senti, qual è l'intervista che sogni di fare? Tornare in Italia un giorno per intervistare chi? Chi ti manca? Vorrei parlare con Napolitano, veramente. Vorrei parlare con lui. Lui ha fatto un'altra cosa straordinaria che io ho visto qua, la prima reelezione di un presidente della Repubblica. Mi sembra un personaggio fondamentale in questi anni difficili per l'Italia, la sua sapienza e tutta la sua esperienza, una chiacchiera tranquilla, perché più o meno col Papa l'ho fatto qualche domanda. Non è lo con stesso. Quale Papa l'hai fatto, scusa? Molto di più con Benedetto, ma tra loro nell'aereo e cose del genere. E Benedetto, devo dire, è un Papa molto vicino, ma che non ha la forza che aveva tra le gente che aveva Giovanni Paolo II, eppure Papa Francesco, che è un Papa del popolo. Ma Benedetto ha una forza interna veramente incredibile, e io sempre prenderò una candela in favore di Benedetto, perché ti ho detto prima cosa che io potrò raccontare a mio nipote. Benedetto ha avuto il coraggio di dire: io me ne vado perché non ho più forza da fare. E quello. E tu hai ammirato questa. Questa audacia, fine, hai notato un coraggio nel porsi in questo modo? Sì, prima già lo avevo sentito quando sei vicino a lui, ma con questo mi ha suscrito tutto ciò che io pensavo da lui. È bella anche questa tua capacità di cambiare idea. Prima di andartene dall'Italia, cosa ti metterai in valigia per paura di non trovarlo in Spagna, visto che sei lì tra gli scatoloni? Già un attimo che vengo a cercarlo, perché ci sono delle sauce per la pasta veramente bene. Adesso la mia moglie non so dove l'ha lasciato, ma c'è una sauce, sì, questa che mi piace tantissimo, pesti de Calabresia. ho preso tantissimi. Grazie mille, grazie Inaki, e naturalmente ti farai una forchettata anche ricordando noi. Salutaci in spagnolo prima di congedarci. Un saluto semplicemente o qualcosa di speciale? Qualcosa di speciale, Inaki? Sì, posso dire un proverbio, ma posso dirlo prima in basco, la mia lingua? Assolutamente sì, basta che ce lo traduci, però scusaci, non siamo in grado di offrire traduzione simultanea in basco, dici? Primo spagnolo dopo primo basco dopo spagnolo e poi italiano. A rischi di onekin, ordua glabur. Hai ragione. In spagnolo sicuramente sì, quasi si capisce. Con buenos amigos las horas son cortas. In italiano? Con buoni amici ore sono brevi. Grazie. E voglio aggiungere, questo mi ha fatto che questi 8 anni siano trascorsi in un soffio. È molto bello questo tuo congedo in diretta su Radio 24. Salutiamo questo narratore dell'Italia. Anche a lui dobbiamo la percezione che gli spagnoli hanno di noi. Si chiama Iñaki Díez Rubio. Grazie spagnolo. Tornerà tra poco a Bilbao, la sua città d'origine, dopo 8 anni di corrispondenza per la Radio Nacional de España. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. 8.35, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Si troverete i podcast dei corrispondenti stranieri radunati in una pagina al termine di questo ciclo di trasmissioni, dunque alla fine della settimana prossima, quando chiudiamo. Se volete scaricarveli, come ci state chiedendo in questi giorni, li troverete in una pagina specifica. Poi potete contattarci a spunti di vista @radio24.it e ancora ora per parlare di sanzioni e soprattutto delle conseguenze che le sanzioni per alcune categorie di prodotti alimentari stanno sortendo su quella che è la realtà dell'export italiano. Potete chiamarci all'800 24 00 24. Con noi più tardi sarà tra 10 minuti il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, e vogliamo sentire da voi che siete interessati in prima persona, vale a dire imprenditori, addetti, e in che modo risentite di quanto sta accadendo, perché se ci sono conflitti, razzi, granate ai confini con l'Ucraina in Russia, questo è invece un conflitto parallelo, una guerra commerciale naturalmente, che sta complicando anche il negoziato per una soluzione politica. Le ultime notizie ci parlano di ritorsioni su McDonald's, su Apple, minacce che si colpirà Coca-Cola, ma anche auto e farmaci. E dunque cosa succederà esattamente per queste minacce russe che spaventano l'Europa dal punto di vista commerciale, ma soprattutto andando alla fine, all'ultimo anello della catena, quello di lavoratori, quello di distributori, quello di chi dipende da un settore che è tra i più energetici, il settore forse più vitale dell'export italiano, vale a dire l'agroalimentare. Abbiamo scomodato alcuni che lo rappresentano bene. Luigi Scordamaglia, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scordamaglia è consigliere delegato di Feder Alimentare per l'internazionalizzazione ed è anche AD di Inalca Cremonini. Lei domani riparte per la Russia. Sì, riparto per la Russia, sì. Come si possono quantificare i danni di quanto è stato stabilito fino ad oggi sul settore agroalimentare italiano? Ma dobbiamo parlare innanzitutto di danni immediati che sono già stati quantizzati per i settori colpiti da mancato export verso la Russia in circa 200 milioni di euro. Questi danni però potrebbero ulteriormente aggravarsi se venissero confermate le ulteriori sanzioni estese ad altri prodotti, per esempio il vino e gli alcolici, che sono state in parte per adesso solo preannunciate. Cioè lei, Scordamaglia, dice che dal 7 agosto, da quando la Russia ha introdotto, diciamo così, le controsanzioni in rappresaglia delle misure punitive, tra l'altro ricordiamolo, sono state decise dall'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Australia, Norvegia, non solo Italia, dunque dopo l'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines sui cieli ucraini, quindi presumibilmente a opera dei filorussi, dal 7 agosto ad oggi l'Italia avrebbe già perso 200 milioni di euro in mancato. 200 milioni sono la proiezione su base annua, su cioè base se consideriamo annua. La base annua dell'esportazione, questo è il valore dei prodotti che sono stati vietati. In merito all'efficacia delle misure che lei diceva, io credo che chiunque prima di introdurre delle sanzioni, parlo soprattutto da parte europea, bisognerebbe chiedersi se sono efficaci o come in questo caso controproducenti. In questo caso hanno avuto l'unico effetto di provocare questa reazione che penalizza proprio uno dei settori più vitali per la nostra economia e nell'ambito dei vari prodotti alimentari europei penalizza proprio quelli a massimo valore aggiunto che sono le eccellenze del food and beverage italiano, per il quale il mercato russo, come lei diceva, aveva una fortissima richiesta anche prospettica. Il mercato russo, se dovessimo quantificare in termini percentuali, quanto assorbe dell'export italiano? Oggi, come dicevo, è molto poco. Se l'export vale circa 28 miliardi di euro, complessivamente la Russia vale solo 700 milioni, quindi in termini assoluti non è moltissimo, in termini però sia di percentuale, perché il nostro mercato estero è molto polverizzato, sia soprattutto di crescita, è uno dei più importanti, perché l'anno scorso è cresciuto 4 volte più che la media di tutto il resto dell'export agroalimentare al mondo. Quindi sicuramente un valore assoluto per ora contenuto, ma soprattutto dei prodotti ad altissimo valore aggiunto, quindi quelli che portano più ricchezza in Italia, è un mercato che cresceva più di qualsiasi altro. Cioè, se il mercato agroalimentare, l'export del mercato agroalimentare italiano verso il resto del mondo, definiamolo così, l'anno scorso è cresciuto del 6%, verso la Russia è cresciuto addirittura 4 volte, cioè del 24,5%. Esattamente. C'è una naturale sinergia naturale tra la Russia e l'Italia, perché la Russia è una grande produttrice di commodity sempre più agroalimentare e l'Italia di prodotti invece di alto valore e ad alto valore aggiunto. Anche questo fa abbastanza ridere, che si pensi che con i divieti russi verso l'agroalimentare europeo rimangano vuoti gli scaffali russi. Una cosa ridicola, perché la Russia ha delle potenziali agroalimentari enormi e in questo modo anzi ne sta stimolando l'autosufficienza. E tra l'altro anche ci sono altre nazioni che si stanno sfregando le mani. Leggevo ieri sui giornali europei l'Islanda, felicissima di aumentare l'export, ma non solo. Ecuador, per quel che riguarda caffè, broccoli, prodotti lattiero-caseari, il Cile, l'Argentina, la Nuova Zelanda, non l'Australia, che invece ha aderito alle sanzioni, il Brasile, l'Uruguay, il Sudafrica. Insomma, sono molti coloro che ambiscono a sostituire l'Italia nel rifornire il mercato russo quando già non hanno una quota, sono già inseriti. E saluto e ringrazio per il suo tempo Stefano Berni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Lei è dirigente del consorzio Tutela Grana Padano. Ecco, ha sentito quello che abbiamo discusso finora e a noi interesserebbe capire quanti sono gli addetti del suo settore, se dovesse. Dunque, il sistema Grana Padano. Il sistema, esatto. Sì, coinvolge circa 40.000 persone. E c'è molta preoccupazione. Ma grandissima, anche perché i numeri che diceva prima il collega per noi sono più gravi, perché per noi la Russia rappresenta quasi il 3% dell'export. Noi abbiamo un danno immediato sull'anno basato su stima annua di circa 15 milioni di euro, quindi di quei 200 là che diceva 15 sono nostri, ma poi noi abbiamo stimato un danno in prospettiva per poi l'appesantimento delle scorte di circa 50 milioni di euro. Tengo a precisare che un prodotto come il nostro a lunga stagionatura, cioè quello che doveva essere esportato ieri in Russia, era stato prodotto 16 o 17 mesi fa da caseifici che erano stati certificati dalle autorità russe e autorizzati a produrre secondo gli standard graditi alla Russia. Quindi c'è una serie di prodotti giacenti nei magazzini da mesi che al momento hanno trovato uno stop. Per effetto di queste giacenze c'è un appesantimento sulle scorte che va a deprimere il mercato, tant'è che ieri uno dei mercati più importanti per quanto riguarda il formaggio Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che è quello di Mantova, ha avuto una flessione del 5% in un'unica tornata. E ancora peggio dovrebbero stare i produttori italiani invece di frutta e verdura, denuncia Coldiretti, perché in quei casi non si può nemmeno procedere agilmente allo stoccaggio come invece per prodotti a lunga stagionatura come il vostro. Cosa avete chiesto? Cosa chiedete e chiederete tra qualche minuto al nostro ospite Maurizio Martina? Anzi, è già con noi, ministro? Buongiorno. Buongiorno, ministro per le politiche agricole, grazie naturalmente per il suo tempo. Stiamo dando voce a persone che operano nell'agroalimentare e sta sentendo anche Stefano Berni, vale a dire il dirigente del consorzio Tutela Grana Padano, che ci sta illustrando quelle che sono le difficoltà del settore a seguito di queste controsanzioni, definiamole così, decise dalla Russia. Ora Berni, concludiamo. Cosa chiede non solo al ministro Martina naturalmente, ma alle autorità italiane ed europee? Beh, innanzitutto chiedo di adoperarsi affinché possa cessare e si trovi la via politica ai problemi che hanno indotto questa situazione, quindi vedere di riprendere com'era, perché per noi il mercato russo era un mercato in grande espansione. I primi 4 mesi abbiamo fatto il più 14% di esportazione, ormai il 3% dell'esportazione andava lì. Quindi in prima battuta cercare di far questo, ma faccio senza dirlo, il ministro lo sa bene. E in seconda battuta degli interventi che ci possono aiutare a tamponare questi disagi economici, che sono molto rilevanti, perché si parla di 50 milioni di euro come impatto solo sul settore del Grana Padano. E infatti la Commissione europea ha stanziato 125 milioni proprio per tutta l'Unione europea per il blocco delle importazioni russe. È acqua fresca, 125 milioni per tutta l'Unione europea. Se si considerano le commodities facilmente peraltro sostituibili, perché le commodities tedesche possono essere prese dalla Russia in altri paesi, ma i tedeschi potranno andare in quei paesi a esportare le loro commodities. Il problema più rilevante sono per i prodotti di qualità, per i prodotti come il nostro, il prosciutto San Daniele, il Parma, il parmigiano reggiano, il grana padano, perché sono prodotti che si sono ritagliati con investimenti importanti degli spazi in Russia, hanno abituato al consumo la classe, diciamo, visto che la costano molto, la classe medio-alta russa, ma questi fanno presto disabituarsi perché sono qualche anno. E che ora devono, dovranno o potrebbero fare un passo indietro. Una denuncia che è arrivata anche da Coldiretti, da Mauro Tonelli, alla riunione operativa sul settore ortofrutticolo, proprio sul fatto che questi 125 milioni purtroppo non sono sufficienti a in qualche modo bilanciare il blocco delle importazioni in Russia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ministro, allora è il momento di fare chiarezza su alcuni punti. Ancora buongiorno. Ministro Maurizio Martina, lei giudica queste sanzioni verso Putin, ci chiedono gli ascoltatori, inevitabili? Ma guardi, quando si ha davanti un problema di carattere politico così delicato e così complicato anche nella gestione della diplomazia internazionale, è chiaro che siamo di fronte a un fatto di estrema delicatezza. Stiamo parlando della vicenda ucraina, stiamo parlando di una delle vicende che sta oggi sul tavolo della discussione diplomatica internazionale, che come dire, sbaglieremmo a banalizzare. Quindi siamo di fronte a un fatto che, come veniva detto bene prima, ha bisogno di uno sbocco politico. Io mi auguro che anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, spero il prima possibile, si riesca a costruire un punto di novità utile per noi e per loro. Non possiamo banalizzarlo, non possiamo pensare che si possa risolvere in 448, ed è per questo che è importante lavorare subito a costruire anche azioni sul versante anche più specifico dei nostri settori, per evitare che questa situazione pesi troppo sulle aziende e sulla produzione. Questo è quello che penso. E perché questi bracci di ferro si riflettono poi sempre sull'anello debole della catena? Il boicottaggio della produzione alimentare, dicevamo all'inizio di questa trasmissione, va a penalizzare la parte più vitale forse della società italiana in questo periodo di crisi dal punto di vista dell'export. Cosa si può fare, cosa intendete fare al Ministero per non lasciare soli imprenditori e lavoratori? No, l'impatto è non va sottovalutato, e noi abbiamo cercato immediatamente di reagire a questa situazione, intanto mobilitando una discussione di carattere europeo. Essendo noi presidenti di turno dell'Unione Europea, abbiamo immediatamente chiesto alla Commissione di iniziare a lavorare sul caso. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi con i commissari europei, in particolare col commissario all'agricoltura Dacian Ciolos. Abbiamo iniziato a fare in modo che l'Unione Europea aprisse alcuni spazi di novità. Tenga conto che noi già stavamo discutendo con l'Europa di alcune crisi specifiche di alcuni settori, ad esempio ortofrutticoli, mi viene in mente innanzitutto il settore delle pesche nettarine. Questa vicenda russa ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione. Devo dire che alcuni spazi di novità si sono aperti, adesso vanno perfezionati sia nella quantità di risorse a disposizione che nella qualità degli strumenti che verranno messi a disposizione. Proprio oggi a Bruxelles ci sarà una riunione molto importante che dovrebbe definire il set di interventi a sostegno del settore delle pesche e nettarine. Noi siamo molto esposti, ovviamente perché siamo grandi produttori. L'Unione Europea ha stanziato solo per questo circa 33 milioni di euro, ci sarà una prima risposta che aiuterà il ritiro di una parte importante delle quantità oggi in giacenza. Poi dobbiamo lavorare a perfezionare e migliorare questi interventi sul versante, diciamo, del problema russo. Mi è chiaro che 125 milioni sono pochi, non possono essere di certo la cifra esaustiva di questo intervento. Abbiamo chiesto al commissario e all'Unione Europea di allargare ovviamente il budget, lo si farà, mi auguro, anche nelle riunioni di perfezionamento che ci saranno settimana prossima, e poi soprattutto noi abbiamo convocato per il 5 di settembre una riunione straordinaria dei ministri dell'agricoltura europei proprio per fare il punto su tutti questi interventi. Il 5 settembre. Si ha l'impressione che la Russia voglia però lasciare una porta aperta. È un'impressione che ha avuto anche lei? Cioè la fine di queste controsanzioni, chiamiamole così, me lo auguro, nel caso ci si possa forse sedere a un tavolo e cercare di capire, al di là del mostrare i muscoli da una parte all'altra, se possono esistere dei protocolli che poi non danneggino così profondamente l'economia nazionale. Ma io me lo auguro, mi auguro che torni il dialogo, e faremo di tutto perché a proposito del caso fondamentale, cioè del tema principale che ha determinato questa situazione, appunto lo scenario migliori. Noi siamo in campo anche per questo, e per cui tutto quello che potremo fare anche nelle prossime ore per rasserenare la situazione e soprattutto per costruire degli interventi concreti di sostegno alle imprese in questa fase lo faremo. Tenga conto che abbiamo discusso a lungo e continueremo a farlo sulla, come dire, la forza e la capacità di queste misure di essere immediatamente applicabili, retroattive, di essere semplici verso le imprese. Stiamo provando a fare di tutto. Mi è chiaro che il mercato russo è un mercato di grandissime potenzialità, soprattutto per l'agroalimentare italiano, e questo passaggio non ci voleva, per cui dobbiamo assolutamente lavorarci con grande, grande intensità. Quindi il vostro impegno passa anche dalla riapertura, dal rilancio di un dialogo. Il governo italiano ha in mano tra l'altro il pallino per la presidenza europea, gode in qualche modo di questa posizione, eppure c'è l'impressione, soprattutto tra gli addetti, che l'Italia ancora una volta penalizzata fortemente, più della Germania, da queste sanzioni finora, a meno che poi la Russia decida l'embargo anche su altri tipi di prodotti, e che l'Italia abbia ancora una volta la parte di Cenerentola in questo braccio di ferro tra potenze. Ma guardi, non so chi ha queste impressioni, e francamente io non ho questa impressione. Teniamo conto che stiamo discutendo, ripeto, di una grandissima, come dire, di un grandissimo tema di carattere internazionale, di grande delicatezza, dove la posizione di un paese in sé non è sufficiente a esprimere un cambiamento. Qui siamo di fronte ad un come dire, problema che investe tutta l'Unione Europea, un grande paese come la Russia, un fatto specifico molto delicato, vicenda Ucraina. Ora evitiamo francamente anche un certo provincialismo, per cui dobbiamo sempre dipingerci come quelli che o sono troppo deboli o sono troppo non so cos'altro. Stiamo dentro una discussione di questa portata e l'Italia sta provando a fare fino in fondo la propria parte. Vorrà pur dire qualcosa se il Presidente del Consiglio nelle ore scorse è andato in uno scenario molto complicato come quello iracheno, e vogliamo vedere anche queste situazioni per capire quanto è complessa la vicenda. Io francamente penso che l'Italia stia giocando fino in fondo la propria parte. Poi se uno domanda di fare di più, sono il primo a dire che non ci si può mai accontentare, ed è chiaro che noi in particolare, che abbiamo la presidenza di turno dell'Unione Europea, abbiamo anche un carico, un onere in più rispetto ad altri, però mi pare che lo stiamo fino in fondo esercitando questo ruolo. Ministro, quindi sintetizzando, possiamo dire un po' che anche questo danneggiamento dal suo punto di vista sull'industria locale dell'agroalimentare italiana è un prezzo da pagare all'Unione Europea, nel senso dell'unità, in questo caso letteralmente di unione, di mostrare unità nella linea decisa. Non ce la farei a dirla così. Onestamente, penso che in uno scenario come questo è chiaro che abbiamo di fronte alcuni problemi, questi problemi vanno gestiti e l'Italia fa la sua parte per gestirli al meglio. Grazie mille per il suo tempo, Maurizio Martina. Grazie, buon lavoro naturalmente, Ministro per le politiche agricole. Torniamo dunque ai nostri imprenditori, se ce ne sono altri all'ascolto che vogliono intervenire, possono illustrarci e il loro punto di vista, tenendo conto di quelle che sono state le spiegazioni e le parole, mi sono sembrate anche abbastanza chiara la posizione di Martina su questa delicatissima vicenda. Il sostegno che arriverà sarà di carattere economico, lei Berni ha detto acqua fresca e 125 milioni, ma sembra di capire che si andrà verso un aumento di questi stanziamenti, Berni. Sì, speriamo, per il momento, ma l'ha detto anche il Ministro, 125 milioni sono una cifra irrisoria, se si considera che solo il grana padano, che è una fettina modesta di quanto sta avvenendo, il costo complessivo in prospettiva è di 15 milioni immediati e 50 milioni per l'anno, e 50 milioni come effetto e come impatto sul sistema, si capisce che i 125 milioni sono poca cosa. Il problema è che il Ministro fa tutto e sta facendo tutto quanto può fare e sta facendo un po' il pompiere, e del resto non è che più di tanto possa fare, non gli si può chiedere di più. Sta di fatto che quello che lei ha detto è vero, e cioè il primo provvedimento che è intervenuto da parte, diciamo, come reazione russa alle iniziative degli Stati Uniti e della UE, è andato a penalizzare di più l'anello debole del sistema UE, perché sono stati penalizzati soprattutto i paesi mediterranei, i paesi che esportano frutta immediata che se non la mandi marcisce, o quelli che portano prodotti di alta qualità come facciamo noi, che sono nei magazzini da mesi, mesi e mesi. Una decisione mirata, una domanda che lasciamo in sospeso, grazie a Stefano Berni. Noi ci ritroviamo dopo il GR per le conclusioni su questo tema e andremo a affrontare poi la seconda domanda della trasmissione di oggi, che riguarda invece la lettura, cioè che libro regalare a chi non l'ha mai letto per farlo innamorare di questo processo. Sono molti gli sms che ci stanno arrivando, non abbiamo dimenticato il tema, ma stiamo affrontando questo importante problema economico e poi parleremo di libri. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E siamo tornati insieme, 909, sì, stiamo ricevendo molti suggerimenti su quale libro da regalare per far innamorare della lettura, naturalmente, chi non ama tanto il genere, e sono in molti, anzi un esercito in crescita, e vedremo dai vostri suggerimenti se quello che voi dite si rivelerà efficace. Prima però stiamo parlando di sanzioni e di caso italiano, esattamente. Le sanzioni intese come economiche, come misura di boicottaggio della Russia, che ha introdotto queste controsanzioni quasi in rappresaglia alle misure punitive varate da Unione Europea, da Stati Uniti, da Canada, Australia e Norvegia. Il casus belli sarebbe stato l'abbattimento del volo della Malaysia Airlines sui cieli ucraini, anche se non c'è ancora un accertamento giudiziario sulle responsabilità. È stato attribuito presumibilmente ai filorussi, alcuni ci ricordano non sono filorussi, sono russi, e quelli che lottano per un destino diverso, diciamo così, dell'Ucraina rispetto a quello che ha ora. C'è chi ci ricorda che la sovranità popolare dovrebbe essere rispettata. Intanto però, e questo è riferimento naturalmente alle questioni non solo interne ma al referendum che in Crimea ha sancito l'indipendenza dall'Ucraina. Al 349-238-6666 ci sono poi le vostre preoccupazioni legate ai posti di lavoro, e proprio su questo noi ci stiamo soffermando oggi, il caso italiano. Cioè, alla fine e dietro le quinte della politica o dei corridoi del Consiglio europeo, perché non è stato nemmeno il Parlamento europeo a decidere queste sanzioni, cosa succede nelle rispettive economie dei diversi paesi, e soprattutto l'anello produttivo, coloro che lavorano con la all'agroalimentare, che tipo di conseguenze subiranno? Luigi Scordamaglia, abbiamo parlato di quello che già è il danno verificato, ora bisogna capire cosa potrebbe registrarsi da qui a fine anno se le sanzioni della Russia permarranno su quello che è il mercato agroalimentare italiano. Si possono trovare, si possono aprire nuovi fronti? Ma innanzitutto una precisazione, credo che valga la pena di farla. Qualunque misura di compensazione si riesca a portare a casa, pur essendo utili come misura di emergenza, non riusciranno mai a sostituire la valorizzazione che il mercato russo fa dei nostri prodotti, della nostra filiera agroalimentare. Questo lo abbiamo già detto, quindi bene le misure di emergenza, ma bisogna risolvere il problema alla radice. Per quanto riguarda le sanzioni, più che appassionarsi se erano necessarie o meno, io credo che bisogna chiedersi se siano efficaci o meno, e non lo sono, perché si dimentica che è l'Europa che ha bisogno della Russia e non la Russia dell'Europa. L'Europa è in una situazione di economia stagnante, l'agroalimentare è uno dei settori, anzi forse quello un po' più dinamico, da cui può uscire con uno strumento che è la progressiva integrazione verso il mercato e l'economia russa. Questo è il dato di fondo, e ogni iniziativa forzata che va contro questo principio ovviamente penalizza soprattutto la nostra filiera. In termini assoluti, se lei mi dice quanto vale, non solo come fatturato che le dicevo, ma anche in termini di posti di lavoro, un po' difficile da dire, perché le aziende non esportano in un solo paese, diversificano la loro esportazione. Ma se considera che, ripeto, vale un ventesimo della nostra esportazione nazionale in agroalimentare, un ventesimo solo dei posti dell'industria, sono già circa 20.000 posti di lavoro. Poi, più che l'industria non fa altro che valorizzare il lavoro degli allevatori, degli agricoltori, quindi è chiaro che viene sempre penalizzata poi l'intera filiera produttiva. Grazie. Soprattutto italiana. Ecco. Soprattutto italiana in questo caso, e ricordiamo che Scordamaglia è consigliere delegato di Feder Alimentare per l'internazionalizzazione, viaggia avanti e indietro dalla Russia e conosce bene la realtà. Sono molte le aziende impegnate in quel mercato. Buongiorno a Roberto Brazzale, buongiorno. E lei è presidente di un gruppo vicentino, il Gran Moravia, che a sua volta è molto impegnato in quel mercato, dottor Brazzale. Sì, come d'altra parte tutti i produttori di grana, è un mercato molto interessante, un mercato che stava crescendo, integrato. È chiaro che anche noi siamo stati colpiti, preoccupati innanzitutto, ma colpiti dalla durezza delle sanzioni e dalla velocità con cui sono state applicate. E soprattutto io vorrei anche aggiungere una considerazione. Due economie che si stanno integrando in maniera così intensa come quella dell'Unione Europea e quella russa, certamente sono sensibili a qualsiasi shock che possa derivare da un tipo di decisione di carattere che discende da questioni di carattere politico-militare come questa. E chiaro che l'effetto che potremmo avere non è soltanto un effetto circoscritto, specifico, che riguarda un singolo prodotto o una singola filiera, perché qui a questo punto si rischia uno shock da eccesso di offerta, per cui tutta l'Europa già oggi sta registrando un forte ribasso, un sensibile ribasso dei prezzi del latte, dei derivati nel caso del nostro mercato, e paradossalmente il consumatore europeo potrebbe beneficiare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi da questa situazione, però in realtà l'interesse più profondo è che un'economia viene scossa. Rimanga sana, più che lo sconto, lei dice, al mercato quando si compra la pesca piuttosto che il formaggio. Paradossalmente potrebbe capitare questo effetto, ma sono effetti sempre che significano che c'è qualcosa di malato. Ora, per noi è inquietante anche il modo con cui siamo arrivati a questa situazione. Non dimentichiamoci che l'Unione Europea si stava muovendo nei confronti dell'Ucraina, e tutto ciò che è successo non per caso, è successo per una serie di scelte che hanno prodotto questo risultato. Ora, noi siamo anche però ha detto il ministro, ha sentito bene Brazzale, non siamo provinciali, cioè sempre a guardare quello che è l'interesse del nostro giardino. Abbiamo una politica unitaria nell'Unione che deve sciogliere meccanismi delicati e politici, e di conseguenza noi staremo vicino, sintetizzando il pensiero di Martino, agli imprenditori che subiscono delle perdite, più che agli imprenditori, ai mercati che possono subire delle perdite con i famosi 125 25 milioni stanziati per ora a sostegno delle produzioni penalizzate potrebbero aumentare, ma non possiamo allontanarci da quella che è una linea comune. Lei come commenta? Ma io sicuramente ritengo che sia corretto quello che ha detto il Ministro Martina. C'è però una cosa diversa. In realtà, diciamoci la verità, l'Europa non esiste come soggetto politico e politico-militare, non ha un esercito, non ha un unico governo, non è in grado di decidere con la rapidità con cui decidono i singoli stati, per cui gli effetti di queste scelte ora finiranno sui produttori agricoli e non è certamente attraverso il ricorso a degli aiuti che a loro volta attingono alle tasche del contribuente che si possa compensare l'effetto di queste situazioni. Io credo che stia anche un po' finendo l'età dell'innocenza, non è possibile sempre rimediare con una summit comunitario a qualsiasi situazione. Queste sono situazioni veramente molto preoccupanti, non dimentichiamoci che, senza voler evocare dei fatti, senza voler andare ad evocare la storia peggiore del nostro continente, ma la Seconda Guerra Mondiale è nata più o meno da situazioni simili. Franz Josef Strauss diceva, premier bavarese, importante ministro tedesco, che non è possibile un'Unione Europea senza la Russia. Ora, quello che ci sta preoccupando non è la visione di breve termine contingente che sicuramente produce dei danni, ma quella che potrebbe essere lo scenario futuro se non ci sarà un'azione politica degna di questo nome. E in questo momento l'Unione Europea chiaramente non è in grado di svolgere un'azione politica forte, perché probabilmente non ha nemmeno il potere e la forza contrattuale nei confronti della Russia per ottenere questo risultato. È stato ben detto che ha più l'Europa bisogno della Russia che la Russia che la Russia bisogno dell'Europa, ma è proprio così, la Russia non ha nulla da perdere. Comunque una risposta che cercheremo di dare tra breve, grazie anche a Roberto Brazzale. Giulio, buongiorno. All'800 24 00 24, scusi Giulio, ne approfitto per dare il numero di telefono perché nella foga non l'ho ricordato a sufficienza, nella foga la conversazione. Lei chiama, se capisco bene, dalle Marche. Io chiamo dalle Marche, sì. Leggo i giornali e mi ha stupito che il ministro parlasse di provincialismo quando dice che l'Italia è esclusa. Non so se si è accorto che negli ultimi 10 giorni Francia, Germania e Inghilterra hanno preso ufficialmente delle posizioni comuni importanti su Palestina, Iraq e Russia, e l'Italia, nonostante al momento sia Presidente dell'Unione, non è stata minimamente ascoltata. Lei dice, lei sta lamentando praticamente ancora una volta la mancanza di peso internazionale, quando la domanda che abbiamo sottoposto anche a Martina, che ci ha detto il ministro, non so chi abbia questa impressione, perché con il ministro degli esteri ucraino e russo si incontrano i ministri degli esteri francesi e tedesco. Stamattina Francia, Inghilterra e Germania hanno preso una posizione comune su Gaza, l'avevano fatto una settimana fa sull'Iraq. L'Italia è totalmente fuori, non ci considera nessuno. Grazie a Giulio, che ha dato voce a una sensazione che molti degli ascoltatori ci stanno rilanciando anche via SMS al 349-238-6666. C'è anche chi va contro questa opinione, basta, non dobbiamo più piangerci addosso, in realtà l'Italia è forte, non è vero, è un'impressione sempre nostra questa del complesso di Cenerentola. Noi intanto ci vogliamo spostare a San Pietroburgo, perché no? Omar Castellani, buongiorno. Buongiorno, perché lei ci può dare una visione, proprio un'istantanea, non dico un'analisi, ma quantomeno una foto un po' diversa rispetto alle prospettive, alle voci che abbiamo mostrato finora. Che lavoro fa, Omar? Chef di cucina. Dove? Albergo Hermitage, l'albergo ufficiale del Museo Hermitage. Dentro questo albergo c'è un ristorante che si chiama Michelangelo e io sono lo chef di cucina. Di fianco a me oggi c'è anche Maurizio Pecoro, che è docente di cucina italiana al College Swissam, è il primo college a livello internazionale che è stato aperto in Russia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Senta Omar, torni al telefono, ci saluti il suo amico, ma ci dica, lei da chef, cosa sta cucinando in questi giorni, cioè quali materie prime le vengono a mancare? Ma per il momento diciamo che la situazione è abbastanza sotto controllo. L'unico problema che abbiamo avuto è la speculazione sui prodotti, nel senso che chi aveva delle giacenze nei magazzini ha iniziato a venderle a prezzi esorbitanti, ovviamente, perché diciamo che sono le ultime di una serie. Ovviamente stiamo ricorrendo ai ripari, nel senso come? Che innanzitutto uno chef di cucina deve anche sapere usare prodotti locali, non solo prodotti di importazione, se no sarebbe molto più facile lavorare. E secondo, con i vari importatori si stanno cercando di importare prodotti analoghi, qualcosa di similare, in modo da poter parare questo colpo. Ma in questi giorni sui piatti, sui tavoli del suo ristorante, immagino si sia seduta gente, poi un albergo a 5 stelle tra l'altro lì, l'hotel dell'Hermitage, gente che veniva per mangiare italiano, diciamo così. Sì, sì, sì. I clienti cosa le hanno detto? Si sono lamentati? Mancava... Diciamo che sono un po' preoccupati perché ovviamente il nostro prodotto italiano lo sappiamo benissimo tutti, che è tra i migliori del mondo, e si preoccupano del fatto che inizia a scarseggiare e che si potrebbe più non trovare. E, insomma, nessuno è abbastanza tranquillo, ecco, la situazione è un po' delicata. E la caprese, siete riusciti a farla, almeno una semplice caprese? La caprese no, questa è sparita già dalla settimana scorsa, perché ovviamente è un prodotto che non ha lunga conservazione, si importava tramite aereo e niente, hanno già iniziato a bloccarla in maniera molto forte. La caprese in questo momento non esiste più. Possiamo fare la pizza perché si importa una mozzarella che arriva dall'Uruguay e spero che non vietino anche quella, ecco, in questo momento. E si ritorna ai paesi che stanno guadagnando in qualche modo dall'embargo russo, paesi che naturalmente vanno a prendere il posto dei fornitori italiani con prodotti quantomeno analoghi. Ce l'ha raccontato molto bene il nostro amico e chef. Naturalmente buon lavoro e buona permanenza in un posto bellissimo come San Pietroburgo. Da quanti anni è lì, Omar? È venuto ufficialmente a venirci a trovare. Da quanti anni è lì, Omar? 6 anni. E gli chef italiani immagino siano molto apprezzati dal mercato locale. Certo che sì, certo che sì. Tutto il nostro manufatto è molto apprezzato in Russia. Grazie mille naturalmente e buon lavoro. Concludo con lei, Scordamaglia. Abbiamo tracciato la fotografia così di una situazione che è in continua evoluzione. L'augurio è non certo che il muro contro muro vada avanti, ma che si possa arrivare a un'alternativa che possa salvaguardare fette importanti di paese, individuare misure, anche sedendosi a un tavolo e con buona volontà, per identificare iniziative che anche in tempi di crisi, ogni volta che accade una crisi, non mettano in ginocchio interi pezzi di regione, di paese, di produttività, Scordamaglia. Io credo, questo è fondamentale, due cose. Uno, l'Italia non è Cenerentola in questo caso per un motivo preciso. Il governo italiano, in particolare questo governo, gode di una considerazione particolare da parte della Federazione Russa. Quindi, con tutti gli equilibri e le garanzie che ovviamente giustamente il ministro Martina diceva, forse per la prima volta abbiamo davvero la possibilità di essere artefici. In quanto a fare gli interessi comuni europei, voglio vedere se la Germania terrà la stessa intransigenza nel momento in cui dovessero bloccargli le auto. Quindi stiamo pagando noi il prezzo di qualcosa di troppo grande e non è corretto. Grazie mille a Luigi Scordamaglia. Parole, situazioni, scenari che andremo a verificare naturalmente da Radio 24. Oggi ci siamo soffermati su questo aspetto particolare delle sanzioni contro Mosca imposte da Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Australia, Norvegia e che hanno generato la reazione da parte della Russia, per capire che tipo di peso abbiano avuto sulla nostra economia. E ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, dal ministro Maurizio Martina al consigliere delegato di Federalimentare per l'internazionalizzazione Scordamaglia, che avete appena sentito, al nostro ristoratore che lavora a San Pietroburgo al ristorante ufficiale dell'Ermitage, Omar Castellani, che ha parlato appena prima di lui, a Roberto Brazzale, presidente del gruppo Vicentino Gran Moravia, e Stefano Berni, direttore del generale consorzio della tutela del Grana Padano, e naturalmente tutti voi che ora parteciperete alla discussione su un argomento di tutt'altro tenore. Parliamo infatti di editoria in questo caso, se vogliamo metterla così. In realtà parliamo anche di abitudini di lettura, perché al di là dei dati, nel 2013 in Italia oltre 24 milioni di persone di 6 anni e più hanno dichiarato, poi non si può verificare mai fino in fondo, che nei 12 mesi precedenti hanno letto almeno un libro. E questo, che può sembrare un dato anche confortante, in realtà misurandolo al dato dell'anno precedente, del 2012, segnala una flessione. La quota di lettori di libri è scesa dal 46 al 43%. Nel corso dell'anno ha letto almeno un libro il 49,3% della popolazione femminile, solo il 36,4% della popolazione maschile. C'è una differenza anche di genere. E noi ci siamo chiesti, ma voi che cosa consigliereste a uno che dice di non leggere, di non essere interessato a questa attività, uno o una naturalmente? Qual è il titolo che potrebbe far innamorare anche un pigrone della lettura? Ditecelo all'800 24 00 24 oppure inviateci gli sms al 349 238 6666. Ci segnalano un thriller americano scritto da un italiano. Cominciamo allora con questa corsa ai titoli. Si chiama Il Predestinato di Alessandro Nardone, e questo thriller sarebbe così avvincente da far leggere anche quello o quella che proprio tanta voglia non ce l'ha. Cos'è che potrebbe incollarvi a un libro se non avete questa abitudine? Noi cominciamo con qualcuno che ha avuto un'esperienza molto particolare. Bruno Contigiani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Bruno Contigiani, che è presidente dell'associazione L'Arte del Vivere con Lentezza, cioè piccole azioni per grandi cambiamenti, ha fatto una piccola azione in campo di libri e si chiama, ci dica lei Contigiani, perché fa eco a una canzone di Giulio Paoli, la vostra iniziativa. Sì, si chiama Leggevamo quattro libri al bar, e è un modo per invitare le persone a raccontarsi, a stare assieme, a conoscersi attraverso un libro, in un luogo in cui volendo ci si può appunto incontrare senza spendere dei soldi, un luogo che tra l'altro è sempre stato un momento di incontro per le persone, quindi trovarsi a leggere ad alta voce e in questo modo far sapere qualche cosa di sé attraverso le righe del libro che ci è piaciuto di più, dell'ultimo libro che abbiamo letto. Un'iniziativa che ha funzionato? Cioè, al di là di quelli che i libri ce l'hanno sempre in mano, quindi aderiscono a queste cose con grande disinvoltura, siete riusciti a coinvolgere qualcuno che di solito non legge? Sì, è proprio, ci sono delle persone che tra l'altro hanno timidezza nell'affrontare i libri, e riuscendo in qualche modo a vedere degli altri che con semplicità raccontano brevemente un libro, leggono qualche pagina e li fanno anche un po' riflettere, si sono poi avvicinati alla lettura, si fanno dare il titolo e si fanno dare appunto dei consigli. E nella sua esperienza qual è un titolo avvincente? Ma guardi, io ho un'esperienza di carcere recentemente, perché facciamo le letture nelle carceri e devo dire che per gli uomini... Ah, lei, anche caso, lei fa una nota una differenza nella lettura, sì, di approccio tra uomini e donne. Per gli uomini i titoli che più riescono a sedurre, diciamo così, quali sono? È stata La Gabbianella, proprio Il Gatto, e quello per loro forse è un titolo evocativo, da lì poi sono passati al Gabbiano Livingston, cioè qualche cosa che un pochino... liberi la mente, liberando la mente fa sentire le persone più libere. Quindi Sepulveda e Il Gabbiano Jonathan Livingston, questo ha fatto avvicinare i libri anche i suoi amici carcerati uomini. Nella sezione femminile delle carceri dove è andato con questa iniziativa invece? Ma nella sezione femminile, diciamo, prima ci ho provato un po' con la poesia, addirittura ero arrivato al canto quinto della Divina Commedia, Paolo e Francesca, poi invece abbiamo scelto delle cose più semplici e siamo arrivati a una forma quasi di teatro, cioè leggere opere d'amore facili, insomma, in cui c'entri l'amore, e siamo arrivati a Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, che è una commedia divertente e permette comunque a queste donne, che quasi tutte hanno alle spalle delle storie difficili, una conoscenza del sé, un raccontarsi, un prendere anche un particolare per poi aprirsi e parlare, perché poi il gioco è un po' questo, cioè il libro è una chiave, è un pretesto per farci entrare, sì. Per parlare, chiaramente. Stiamo stilando, stiamo prendendo nota di tutti i titoli che ci vengono suggeriti e naturalmente anche da lei con Leggevamo quattro libri al bar. Bruno, grazie per questa testimonianza. 800 24 00 24, c'è chi ci dice: Ave Mari di Michela Murgia è un libro eccezionale, e ce l'ha scritto questo messaggio Rosanna. Dunque, attenzione, potete non solo segnalarci un libro che voi trovate bello, ma un libro che secondo voi è seducente, un libro che può acchiappare, come si dice in gergo, tutti coloro che di leggere tanta voglia non ce l'hanno. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Anche tra i titoli segnalati i libri di Chiara Moscardelli, perché Chiara Moscardelli è esplosiva. Bene, ci fa piacere che questa sia una segnalazione arrivata con i vostri sms. Vi ricordo ancora il numero 349-238-6666 e per parlare al telefono invece 800-24-0024, perché l'autrice oggi è con noi. Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno, buona mattinata a tutti. E tu che nella vita fai mille cose e trovi anche il tempo per scrivere romanzi, il tuo romanzo d'esordio sembra sia piaciuto molto a gente che di solito non leggeva, grande successo di pubblico. Volevo essere una gatta morta, scusa, di che si tratta? Io ammetto, non l'ho letto. Volevo essere una gatta morta, un titolo ben molto... Eh sì, ma ahimè, io personalmente sono nata podalica, non gatta morta, e quindi non si può avere tutto nella vita. Io sostengo che il gatto morto si nasca, non ci si diventi, purtroppo. E quindi è così, attraverso tutte le mie disavventure amorose, lavorative, eccetera, io affronto la tematica della gatta morta. La gatta morta è una categoria micidiale e devo dire... No, ma ce la puoi spiegare meglio la categoria della gatta morta? Perché la gatta morta, proprio... sì, sì. Non è proprio un pilastro della cultura occidentale, diciamo. Scusa, c'è un attimo sfuggito cosa significa. Esatto, è la passiva aggressiva, diciamo, non deve essere per forza, non si basa sulla bellezza, cioè la gatta morta non è necessariamente una bella ragazza. La gatta morta è quella che fa credere all'uomo di avere il comando, e invece fa finta di essere debole e invece è forte. È quella che dice che non può guidare la sera da sola perché ha paura e quindi l'uomo si sente maschio. È quella che dice che non può rimanere a casa da sola mentre lui è a giocare la partita di calcetto e lui è tutto soddisfatto. Cioè, una invece come me dice: ma sì, ma vai a giocare la partita di calcetto. Ciò non toglie che ho anche io, o anche le non gatte morte, le nostre debolezze. Però sono debolezze che l'uomo non percepisce immediatamente. Mentre quelle della gatta morta, sì, in realtà la gatta morta non è affatto debole, è fortissima. No, io ti sto seguendo con grande attenzione, ma questa sottile divisione tra gatta morta e non gatta morta, no? Quindi questo libro che ha avuto un grande successo di pubblico, chiaro, sì. Tu non avrai mai fatto un sondaggio tra chi l'ha comprato, ma è piaciuto più alle donne o agli uomini? Sì. Ecco, paradossalmente è piaciuto, no, sto dicendo di più agli uomini, però ho avuto tantissimi lettori uomini, cioè io ho fatto anche separare coppie, nel senso che ci sono degli uomini che mi hanno scritto, anche uomini, insomma, intorno ai 40, quindi insomma, miei coetanei, che mi hanno scritto e mi hanno detto che si erano accorti di avere accanto una gatta morta, perché poi la cosa buffa è che solitamente gli uomini, quando io o noi, insomma, in generale non gatte morte, descriviamo una gatta morta, l'uomo sì. di turno che ascolta sì. dice: ah, io non potrei mai, ah no, io guarda, io una gatta morta proprio non la potrei mai avere accanto, e poi scopri che invece è esattamente il prototipo di donna che a loro piace, non c'è niente da fare. E quindi questo tuo libro ha riscosso successo anche tra persone che normalmente non leggevano? Assolutamente, anzi ho avuto più non lettori che lettori abituali, che lettori abituali. Sì, ma tu quale titolo consiglieresti a uno che non ha tanta voglia di leggere? Cioè, allora, mettendo la mano sul fuoco che quel libro lì lo porterà a termine e poi magari ne prenderà altri. Allora, anche io ascoltavo prima, devo fare una distinzione tra lettori maschili e lettori femminili, nel senso che per quanto io per esempio no, sono sui generis perché io leggo di tutto ovviamente, però anche per il lavoro che faccio. Però se dovessi consigliare a un uomo un libro, io lo consiglierei più che altro le trilogie, non so, o Harry Potter, che non è proprio una trilogia. Le trilogie? Saga. Sì, sì, perché... Di Harry Potter, perché? Perché prendono, paradossalmente sembrerà assurdo, come dice, un lettore non può affrontare una saga. Invece sì, il Trono di Spade, tutte queste cose. Ah, perché saghe, sono avvincenti, tu sì, dici? Sì, io sto dicendo, sto cercando cioè parlo di libri che non che sono piaciuti a me o che possono piacere. Sì, sì, ma questa è la domanda. Esatto, che in qualche modo possano, nella lettura tu possa dire io questa cosa non la riesco neanche a appoggiare sul comodino, cioè vado avanti tutta la notte. E questi sono fatti, sono scritti secondo me a tavolino appositamente, secondo me sono scritti appositamente per i non lettori, tutte queste saghe, ma anche l'Hobbit. Per i non lettori, non ci avevo mai pensato, ma forse hai ragione, sai Chiara, scrivere per i non lettori potrebbe essere un obiettivo degli scrittori. Intanto grazie, ti sei rivelata proprio come ti avevano annunciato negli SMS, cioè proprio esplosiva. Chiara Moscardelli, grazie. Il titolo lo ripetiamo. Ripetimelo dall'inizio alla fine perché sto prendendo nota. Volevo essere una gatta morta. Volevo essere una gatta morta. E poi c'è stato un secondo, una specie di continuazione. Come si intitola? Sì, La vita non è un film, ma a volte ci somiglia. La vita non è un film, a volte ci somiglia. Grazie. Noi continuiamo con la nostra rassegna di titoli. Ti prendo e ti porto via di Ammaniti con tutto il cuore che c'è dentro qua. Non sbagli mai, ci segnala Andrea. È un altro dei titoli che dovrebbero far leggere i non lettori. I non lettori, tra l'altro, affollano le librerie. E lo sa bene Marino Buzzi. Pronto? Buongiorno Marino. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Marino Buzzi, cosa fa nella vita lei? Sono un libraio. Un libraio e anche un blogger, però ha scritto un libro eccezionale come titolo. Un altro bestseller e siamo rovinati, diario semiserio di un libraio. Ha questo blog, cronache dalla libreria blogspot.it, veramente esilarante, in cui Marino segnala tutti gli incontri surreali che avvengono appunto nelle corsie della libreria, con le domande più assurde che vengono fatte da clienti, lettori e non. Marino, segnalaci alcune storie. Ma guarda, le cose migliori sono i titoli, i libri inesistenti, le storpiature dei titoli, credo che siano la cosa più divertente che mi capitano in libreria. Ti chiedono, alcuni clienti ti chiedono di tutti, arriva la signora ma è di tutto, arriva la signora che magari ti chiede un libro di cui non ricorda l'autore, il titolo, però ricorda che la copertina è rossa, per esempio. E quindi insomma non è facilissimo, oppure arrivano i clienti che ti chiedono libri tipo i Ma che voglia al posto dei Malavoglia, oppure i Fratelli Kalashnikov, splendida insomma, oppure ancora La casa in Indocina al posto della Casa in collina, insomma succedono delle cose davvero molto divertenti a volte. Qualcuno... Le coliche mi hai segnalato sul blog, ho visto le coliche, cioè il mal di pancia di Virgilio, no? Sì, ultimamente è entrato un ragazzo e mi ha detto scusa ma tu hai le coliche? Ma insomma ogni tanto mi vengono, non spesso fortunatamente, sono molto doloroso, cercavo le bucoliche. Beh, un osservatorio assolutamente privilegiato il vostro di librai. C'è anche qualcuno che vi dice beati voi che lavorate in libreria, pensa a me che devo andare a lavorare, no? Beh, comunque è il lavoro, la cosa... È un lavoro? Non è un piacere, certo. È sicuro? È principalmente il lavoro. Guarda, la cosa che mi sento ripetere spesso è ah, beato te che fai il libraio, così puoi leggere tutti i libri di questo mondo. Ecco, allora lo diciamo subito, il libraio, in libreria, fa di tutto tranne che leggere. E poi? Io leggo a casa, in treno, leggo la mattina, mi sveglio prima per leggere, ma al lavoro fai altre cose, servi i clienti, sistemi i libri, apri i colli, stai attento alle novità, fai le spedizioni, insomma fai di tutto tranne che leggere. Aspetta, perché tra poco ti rivolgeremo la domanda sul titolo, perché da lettore, non da libraio, a casa ti sarai fatto un'idea anche tu di quale può essere un libro avvincente. Però ci dicono: compratevi un ebook e comunque la vita vi cambia. Questo è uno degli ascoltatori. I libri non si chiamano, bensì si intitolano. Hai ragione, Paolo, è vero, abbiamo detto come si chiama questo libro, ma insomma cerchiamo di capire cosa intendiamo. Indignazione di Philip Roth, perché è corto, perché è ironico, perché è intenso. Questo ce lo segnala da Alessandria Massimiliano. C'è poi chi parla di classici come Il Signore delle Mosche e infine, stiamo scorrendo qui gli SMS, sicuramente consiglierei un capolavoro di Stefano Benni, Comici, Spaventati, Guerrieri. Questa segnalazione invece arriva da Salerno ed è Giuseppe che ce la fa. Attenzione, bisogna anche spiegare perché. Perché un libro può essere interessante per qualcuno che di solito non legge. E la questione sul corto, cioè sul fatto che un libro, come dire, non spaventa, non intimidisce perché ha una dimensione piccola, è qualcosa, secondo te, Marino Buzzi, che funziona sui non lettori? Tu che fai il libraio, la quantità di pagine può scoraggiare? Purtroppo sì, guarda, soprattutto in questo periodo, che è il periodo che noi definiamo di scolastica, perché cominciamo a vendere libri di scuola in previsione dell'apertura delle scuole, vengono i genitori a prendere libri per i figli, magari le letture estive, e ti dicono sì, però un libro con poche pagine, perché altrimenti poi mio figlio non legge. Un libro con poche pagine, non è male. La copertina rossa anche ci è piaciuto, un libro con la copertina rossa, sì. Anche l'effetto della copertina può essere molto invogliante o meno, può respingere, quello funziona moltissimo, il messaggio della copertina. Mustafa, buongiorno, pronto? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama innanzitutto? Io chiamo da un comune piccolissimo, San Posidonio, provincia di Modena. Provincia di Modena, comune. Benissimo, esatto. Dica. Io dicevo che qua, anche con i miei figli, dicevo quando vedi un libro, se non lo vai a vedere o a salutare, è come praticamente quando una persona ti chiede un'informazione e non ti fermi per aiutare o per vedere cosa gli servi, di cosa ha bisogno, è maleducazione. Questo libro lo devi andare a vedere, a salutare, apri, perché è una persona che ha bisogno di te, che ti vuole dire qualcosa e fermo lì, ti aspetta, vai a vedere, apri, leggi di cosa si tratta, magari sarà l'argomento tuo e di cosa si tratta, e lo puoi usare così via. Io sono riuscito a convincere i miei figli, che è molto molto, sono molto contento, perché c'è la bambina mia di 5 anni che piuttosto che dormire con il cellulare in mano dorme con un libro e mi fa molto piacere. E quindi lei insegna ai figli a avvicinarsi ai libri come ci si avvicina a una persona che magari da un altro secolo vuole mandarci un messaggio, come... E quindi rifiutare di andare a rispondere a questo saluto è maleducazione, giusto Mustafa? Sì, sì, se non vai a vedere questa persona che tu hai bisogno è una maleducazione. Se passi davanti a un libro e non lo vai a vedere cosa vuole da te, perché ti sta aspettando, ti guarda in faccia tanto per parlare, se non vai a vedere cosa vuole, di cosa ti tratta, è una cosa che ti voleva dire questo libro, e per me è una maleducazione. Grazie mille per questo approccio decisamente originale, molto delicato, molto bello, e anche l'immagine della bambina di 5 anni che dorme con il libro invece che col cellulare, ci diceva il padre, è molto importante. Infatti il piacere, il libro come portatore di piacere, si impara proprio in quegli anni lì, anche se a leggertelo è la mamma, il papà, sono le figure che ti danno piacere, però si impara proprio in quegli anni il fatto che può essere un gioco divertente quello della lettura. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora un saluto da Irene Zerbini e di trasmissioni sulla lettura, ce ne sono di specifiche molto profonde, molto più profonde di queste, molto belle, su Radio 24. Noi oggi l'abbiamo presa invece un po' d'angolo la lettura, perché vogliamo capire come convincere chi non ce l'ha quell'abitudine. Silvana, buongiorno. Buongiorno. È proprio questo che volevo precisare. Di dire alle persone che hanno la fortuna di vedere, come io non ho più, di leggere, perché per me in questo momento, diciamo, è la cosa più terribile che mi sia successa, perché io leggevo fino alle 3 di notte e la lettura mi ha dato moltissimo nella vita, proprio, devo dire, nei momenti tristi, nei momenti non tristi, e mi portava al di là sempre dei miei problemi, di qualunque cosa. Quindi chi ha la fortuna di poter vedere deve leggere, perché la lettura dà moltissimo. Silvana, è molto bello che lei abbia condiviso con noi questa perdita, però noi le auguriamo naturalmente non solo di stare bene, ma di avere anche qualcuno che venga a leggergli i libri, perché si possono godere tantissimo anche dalla voce altrui. Grazie mille a Silvana, e voglio segnalare anche altri titoli che ci sono arrivati fino a questo punto. Oceano Mare di Baricco ti fa sognare nella dimensione dell'infinito, ci scrive un lettore, una lettrice, Katia, una lettrice, al 349-238-6666. Il talismano di Stephen King, perché piangi, ridi, ti terrorizzi e lo divori in un paio di notti. E questa segnalazione arriva da Anna e da Udine. Il tristo mietitore di Terry Pratchett assomiglia molto alle intermittenze della morte di Saramago, ma è anche comico. È vero, è un libro che può appassionare chi di solito i libri non li prende in mano. In effetti ha questa caratteristica. Roberto Montroni, buongiorno. Buongiorno. Roberto Montroni è... Romano Montroni, mi hanno... perché altrimenti... No, va assolutamente corretto, mi appare là qui sul monitor come Roberto e quindi le ho attribuito un'altra identità, me ne scuso. Lei ha sempre lavorato alle librerie Feltrinelli, è stato direttore delle librerie Feltrinelli, ma soprattutto è professore a contratto nel Master in Editoria Cartacea e Multimediale di Umberto Eco presso l'Università di Bologna. Insomma, è docente della Scuola per Librai, ne ha viste e sentite di tutti i colori. Io comincio con la domanda finale, cioè un titolo, dovendo selezionare nel suo mare d'esperienza, un titolo che secondo lei ha molta presa su chi non legge. Chi non legge, non c'è dubbio che deve essere un testo che lo entusiasma. Allora, il libro che mi viene da dire è quello di Agassi, Open. Uno che non ha mai letto un libro e legge questa grande storia di questo grande tennista, scritto da prendo Pulitzer, quindi scritto perfettamente, non può non appassionarsi alla lettura. Perché come è Ezio Raimondi, il grande italianista, mentre ascoltavo tutta la vostra trasmissione, sì, abbiamo una serie di appunti. Ezio Raimondi, il più grande italianista che la nostra università abbia avuto, è mancato da poco tempo, grande collaboratore della casa editrice, della prestigiosa casa editrice Il Mulino, ha scritto un libro che si chiama La voce dei libri, e lì dentro ci sono delle frasi fantastiche. Una di queste dice: nei libri c'erano gli esseri umani con la loro verità, le loro parole profonde, le parole che toccano, che lasciano nel lago del cuore una risonanza che si prolunga nel tempo e mobilita quel tanto che c'è nella nostra fantasia. Allora, è vero, cioè è chiaro che uno che non abbia mai letto non gli puoi dare il libro di Manzoni, per dirne uno, cioè devi dargli un libro che lo possa stimolare, ma come le cose che ho sentito nelle interviste che avete fatto fino adesso, il nodo vero non è tanto, a mio modo di vedere, tentare di convincere un lettore cinquantenne, uno che non ha mai letto niente nella sua infanzia, a leggere. Può anche essere possibile questo, ma la lettura va creata quando il bambino nasce. la storia insegna nei paesi dove ci sono forti elettori, cioè voi avete detto i dati dell'Italia, ma sapete che in Germania l'82% dei tedeschi legge? In Gran Bretagna il 76, in Francia il 70, e se vai a vedere, soprattutto in Germania, non parliamo poi dei paesi nordici, tutte le istituzioni dello Stato sono legate a promozioni continue, a tensioni esasperate nel mondo della scuola dell'obbligo. Ecco, cosa facciamo in Italia da questo punto di vista? Poco, salvo scarsi volontari, poco. Ecco, va segnalato, nonostante queste cifre desolanti dell'Italia rispetto alle realtà che lei ha citato, che comunque anche qua la fascia di lettori più forte è dagli 11 ai 17 anni. E questo è un dato che ogni anno sorprende, ma che si riconferma puntualmente ogni anno. Non stiamo parlando di scolastica però, Montroni, stiamo parlando di libri fuori dall'obbligo scolastico, e regolarmente comunque con la scarsa attitudine alla lettura che abbiamo noi italiani rispetto ad altri, e dagli 11 ai 18 anni i libri sono molto frequentati rispetto al pubblico adulto, quindi attenzione anche a certi pensieri, a certi cliché che abbiamo sui ragazzi. Lei ha detto bene, la lettura va coltivata prima, addirittura prima che il bambino sappia leggere, no? Ma guardi, io adesso mi occupo del Centro del Libro delle Letture d'Italia, un organo del Ministero della Cultura. Alla mia tarda età mi hanno dato questo incarico di presidenza. Allora, abbiamo fatto una ricognizione di cosa avviene nei paesi europei, ma lei non ha idea delle cose che lì le attività dello Stato, delle regioni, dei lender, cioè tutte queste robe qui vanno a toccare come il bambino nasce, lo guidano, lo tutelano, lo istruiscono, lo seguono bambino e famiglie, perché credono che il bambino che legge possa dare molto di più, perché mi viene da leggere, visto che in questi giorni leggevo il libro di Raimondi, un'altra frase di Raimondi bellissima, che nella lettura si trova tutta una serie di argomentazioni che fanno maturare il soggetto. Se tu non impari a leggere fin da quando sei bambino, difficilmente ti rimane poi dopo. Lei ha citato dagli 11 ai 18, secondo me la lettura più forte è ancora prima, nelle scuole elementari, quando i bambini sono più piccoli, perché lì abbiamo una classe di insegnanti forse più attenti a questo. Allora, come dicevo prima, c'è una serie di volontariato in genere da parte degli insegnanti per far questo, ma non c'è l'obbligo didattico della lettura come avviene invece in altre strutture. Cioè, la lettura ad alta voce, ad esempio, perché non si fa tutte le settimane nelle scuole, per non dire tutti i giorni, la lettura ad alta voce? Perché non esistono le biblioteche scolastiche, salvo rari casi. Certo. Salvo rari casi. Sa Romano Montroni che la lettura ad alta voce nelle scuole tutti i giorni ha degli effetti molto molto aggreganti e poi fidelizzanti. Ad esempio in Canada si fa così, cioè l'insegnante entra e non insegna niente, prende un libro e comincia a leggere ad alta voce. Ragazzini che non hanno mai magari afferrato un libro vanno a casa e vogliono sentire la fine della storia e vanno a prenderselo in biblioteca o se lo comprano. È così. È molto semplice, come dire, come tecnica, eppure viene disertata nelle nostre scuole, cioè si danno dei titoli, dei libri da poi leggere a casa. Cosa pensa del successo del libro sospeso? Perché sta andando per la maggiore questa pratica. Ogni cliente che entra in libreria trova un libro già pagato in Italia, in diverse librerie che lo aspetta, scelto dalla persona sono entrata prima di lui. Sembra stia attecchendo moltissimo. Guardi, qualsiasi iniziativa che si fa per creare attenzione a questo mondo è positiva. Pensi quanti festival della letteratura noi facciamo in Italia, sì, quanti finanziamenti questi hanno e quanto invece poco si investe là nel terreno della crescita vera, che sono le biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche. Allora, come centro di lettura, noi ci occuperemo primariamente di prestare attenzione a cosa può avvenire nel mondo della scuola. Poi un'altra delle cose che sarebbe da attuare, solo che ci sono delle resistenze di tipo sindacale, ma i volontari, ma perché non mettere dentro dei volontari che tutte le settimane in vari momenti vanno nelle scuole e leggono? Ma perché non farlo? lì ci sono degli schieramenti contro a non finire. Allora io credo che... E sono tutte esperienze queste che lei ci sta citando, Montroni, tra l'altro empiriche, che lei non ha, che ha osservato dare grandi frutti in altri paesi. Queste sono esperienze quindi che potrebbero funzionare anche da noi. Dobbiamo purtroppo salutarci, diciamo a Silvana, suggerisce un ascoltatore gli audiolibri per la nostra ascoltatrice che ha perso la vista, un suggerimento molto delicato al quale ci uniamo. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Spunti di Vista ritorna domani mattina con il meglio di alle 7:30 e lunedì mattina in diretta. Un saluto da Irene Zerbini.